si dorme? Vabbè, c'è nessuno questo canile. Allo, 1, 2, 3 stella. Allora, c'è nessuno? E quindi? Allora, come mai? Non lo so. Boh, non lo so. Ah, cosa abbiamo col gatto oggi? Non c'è nessuno, com'è? Buonasera a tutti. Entra più calmo, come va tuo socio? Io sono calmo. Non passare voci. Che sei quasi al limite dello strappo. Addirittura. Non devi gridare, ma tu pensi. Facci mandare la registrazione, si massiglia, ma forte, non è cuccia di gioia. Quando compro scambio. Scambiati, non mi va di parolacci, non vuoi Giulio. Chi c'è ancora oltre te qua? Io, mamma e tu, nessuno, beh, manco un cane. Brava, che devo già c'è sotto. Sotto? Ci metta sopra allora, mi piace di più. KK è positivo. Se si mette sotto io non posso fare niente. Avanti, bobo. Ora cosa ti dure? Ma che vai? Vai, tu sì. Ma ora. Allora chi è? Oramai siete tutti con la stessa modulazione, oramai. Ho fatto man bassa dall'85 a oggi con questi K e quindi ci avete tutta la modulazione uguale. Allora parliamo tutti a Paperino, va bene? A Paperopoli. Buonasera, Saluto, buonasera. Buonasera Massimiliano. Ciao Valerio, buonasera, ben ascoltato. Ma per caso ti può interessare quell'aggeggio che hai commentato su Facebook? Quella è una bella cosettina. Quale? Quella a fare tutto a righe, quello nero che hai commentato. Quello è bello. Posso mettere un accordo, lascia stare quel prezzo, per te è un altro prezzo. Non ho capito, no, però, ma sì. Qual è l'amplificatore V? Cioè, V solo, no? No, non va bene, per qua no. Per qua non va bene. Lo metti per là. Per il particolare. Lo metti per là. Ma dove tu non ce l'hai il portatino come Giuseppe? Lo vuoi uno uguale a quello? Come hai fatto? Ascoltare a Elia che ci attalda. Non mi interessa, no? Vabbè. Ne abbiamo di quelli. Ce n'è da buttare, ce n'è di quelli. Una cosa che non mi piace, no? Per partigino così, no, non mi interessa. È una cosa che proprio non mi interessa. E invece adesso, a parte tutto, io sono sicuro che tu usciresti meglio con l'85, lo sai, per la modulazione che hai. Ah sì, veramente, perché ce l'ho molto sottile lì. No, perché l'85 avendo il parametrico te la fa ancora più, praticamente te la più acuti, tu c'hai molti bassi a rispetto di Massimiliano, vedi Massimiliano sta usando l'85, quindi come esce? Avete più o meno la stessa voce, no? E lui gliela corregge, le dà molti più acuti, tu c'hai molti più bassi. Rimane molto la modulazione valida, molto un po' come troppo sul passoso. Io sento male Massimiliano, c'ha la voce tutta impastata, è cuffa. Cuffa? E cosa c'hai? L'NB inserito? Toglielo. Cuffa, no, qua sta arrivando benissimo Massimiliano. Siete più o meno allo stesso livello. Prova Massimiliano. Guarda, vedi, mi senti cuffa? Mi sembra strano, eh? Ma sento cuffa. Anche l'altro giorno. Anzi no, l'altro giorno mi sa che era molto più chiaro, adesso è cuffa. Cosa c'è? Il compressore disinserito, Massimiliano? No, come l'altra volta. era appena acceso. Allora, il problema purtroppo di quelle radio, sia per te Valerio che per Massimiliano, il problema deve rimanere accesa, perché se tu l'accendi, appena l'accendi, ti metti a modulare, c'è questa voce, c'è questa modulazione che non è bella squillante, capito? Perché è un due conversioni, è così, infatti tanto è vero che arriva poi, tu lo accendi e lo lasci a 30 watt, lo trovi a 5 watt, devi aspettare che scaldi e mettersi in sesto. Cosa contraria non lo fa il 430 al 440, che è un tre conversioni, capito? Il problema è quello del 140 circa, solo quello, per il resto sono delle radio eccezionali, soprattutto se 80 ha una buonissima ricezione. Meno QR matta del 140, meno QR matta, però sono equivalenti, perché uno c'ha la scheda dei 6 metri in più, c'è il percettore d'antenna e basta, per il resto all'interno è tutto uguale, preciso e identico. Sì, ho capito, l'ho detto, questo è freddo, l'importante era accesa, era bella, alla fine era mollente, ce l'ha fatto scaldare bene. L'ho detto subito un attimino, si è raffreddato, già si è scaldato. E poi vediamo la mattina, perché la prendiamo, la sentivo benissimo, la voce era chiara, sentiamo le stesse, mi pare. Quante stesse? C'è dei picchi negativi di brutto, ma di brutto per me. L'altra notte si va benissimo, adesso lo stesso cupo, forse sarà anche quello che la modulazione, cioè anche che la radio stessa. Vabbè dai, lo vediamo, cosa dice. Cosa c'ho? Dei picchi negativi? No, negativi no, positivi, ma di brutto anche. Vabbè. Cosa vuoi farci? Vediamo un po', Guarda, così se la voce ha migliorato adesso, vale. Forse sì, un po' migliorato. La sento tipo dentro un barattone, ce l'hai presente? No, ma tu dentro un barattone mi senti? Perché sta ricevendo luci valide, io ti sento bene, ma ci vediamo, sono ancora benedetto. Io sto sempre controllando le vostre missioni, perché ti sento bene, non so cosa dire. Anche lì quando sono a Sassari, tutti io mi sento tutti quanti bene quando sono a Sassari, no? E di solito in distanza qualcuno cambia di modulazione. Vabbè, ma non è niente di grave, ma ti ascolto ugualmente. Sì, va bene. Vabbè, ti ripeto, magari si sta iniziando un po', ho fatto il fuoco, adesso va lì sotto, capito? Vedi, può darsi che adesso deve scaldare un po', poi può darsi che senta anche me, ma non è niente di grave, si sente lo stesso, capito? Non è che ogni tanto sento, solo che sento questo effetto baratto, sento una relazione che è molto, molto cupa, vabbè dai. No, non c'ho l'NP, Claudio, devo inserirlo. Devi inserire però. Cosa? Non devi inserire l'NP, non devi disinserire. Disinserito, non è attaccato. Tutte e due, NP1 e NP2 sono tutte e due disinseriti. E prova a inserire l'NP1, a vedere. Prova. Guarda a vedere, 1, 2, 3, prova. No, certo, è la stessa cosa. Di cosa volte che ti dici, Vali? Asci esci. Asci, no? Va bene, dai, già, va bene. Ricordati che l'inglese lo capisco tutto, Beh, non c'è problema, io non lo capisco niente. Io non ci credo, va. Parolina, dai. Comunque io la prova l'avrei fatta con l'85, Vali. Sarà perché la tua modulazione lo stesso è carica di bassi, non c'hai gli acuti, capito? È buona ma è carica di bassi, sento molti bassi rispetto alle altre modulazioni che invidiano. Lasciate perdere a me però, perché io sono un caso a parte, ok? Però Massimiliano secondo me c'ha più acuti di te, infatti è molto forte come radio, forse lo senti per quello, non so, io lo sento molto forte qua. Ma sono distratto, sentito, penso, Massimiliano. professore di Kishuo. Tu come hai deciso di inserirlo? No, diciamo che ti abbassa la modulazione, ma i toni sono sempre medio bassi. Non hai acuti, per me non hai acuti. Manchi di acuti, e quello è derivato dal fatto che ci vorrebbe sicuramente un parametrico, quindi un microfono con equalizzatore, in modo che tu possa equalizzare leggermente la modulazione e dare più acuti, capite? Io già ce l'ho un 85, non ho nessun problema, capito? Nessun problema, già lo sai che ce l'ho, quindi non ce n'è problema. Si può fare anche un cambio, io metto 60 sul 780, quello in 2 in 1, e tu ti prendi l'85. Che paura c'è? Io non ne ho problemi, già lo sai, tu sei proprio pronto, figurati se ci sono problemi, non c'è problema, capito? Però secondo me ci può anche provare, si prova, capito? Non è quello il problema, però secondo me vai molto meglio con l'85 tu. Massimiliano lo stesso, avete le corde vocali con tonalità molto, molto grossa, molto acuta, capito? Io invece ce l'ho grossa la tonalità, però lo spingo di petto e quindi darò quella potenza in più ai microfoni, capito mi hai? Vero Massimiliano, tu cosa ce l'hai grossa? Sì, diciamo che la mia era salotto, capito? Vabbè, era salotto, ok. La salotto ce l'hai tu, bene, bene. Tu invece come ce l'hai da night, vale? Yeah. satellite no, no. Veglia, ma stiamo andando, io sto andando a monte, a vabbè, però non la puoi vedere dalla strada perché è un vicolo, capito? È proprio il vicolo che è di fronte all'unico tabacchino che c'è in Corso Trinità. Io già lo so, già ho capito dove però mi sono, diciamo, ora lì cambia proprio, non è più confermato. Devo camminare piano piano, guardando, però non sono confermato, non mi sono fatto una volta. Magari no, non si vedeva da lì, capito, però già c'è, come anche ne l'abbia tolta ieri notte, ha preso la moletta come ha fatto qualcuno, capito, Natali, problemi così, se non si risolve quel problema lì con l'imbecille che c'è all'ultima spiaggia lì, cioè non è neanche modo di comportarsi, di andare subito a aggredirlo, a farlo, le cose bisogna organizzarle, se c'è da rattoppare si rattoppa, ma non è che tu puoi andare a pigliare la voce, a prendere la voce a uno così, capito, perché lì stai molto attento, non sai mai come quello reagisce. E quindi bisogna stare molto molto calmi, vero Massimiliano? Vabbè, vuoi stare un po' attenti anche, perché secondo che ci trovi vicino poi potrebbe succedere anche altre cose brutte. Va bene, ok. Ma lì adesso meglio mi ascolti, adesso è caldo, perché poi non ne hanno fatto altri, perciò li conosco tutte quelle radio, se quella radio è dentro l'armadio, lui può continuare a tenerla dentro l'armadio, a meno che non si provi, si vede se si prova, si tiene accesa, si modula, si vede se la radio è ancora efficiente, capito? Se è efficiente vuol dire che è da poco che lui l'ha conservata, ma se è da tanto stai pur proprio tranquillo che c'è da cambiare i condensatori, e il lavoro fatto da Bianconi ti costa minimo altri 200 euro tra andare e tornare e lavoro, ok? Perché l'ho mandato io il mio, il 440, a revisionare da Bianconi, adesso la prossima settimana lo mando il 430 e mi ha preso 200 euro secche. Sul se ci hai dato il numero di telefono che lo vuoi parlare. Ok, senza dire chi sei. Mi passi il numero e lo contatto io e vediamo un po', che le faccio un po' di domandine. Poi vabbè, se piace, non mi fa piacere anche sentirlo, perché io c'ho il numero, però non risponde più a quel numero, deve averlo cambiato. Bisogna usarli soprattutto, in caso contrario, tenerli almeno accesi, ricezione, ascoltare, fare, però mai tenerli spenti da tanto tempo, perché ci rimetti i quattrini, vabbè, capito, non fa. Vecchiume. Roba vecchia. Vecchia ci avete, non vi dico che cosa, tutte e due. E giri di medica magici, brutti cornuti che non siete altro. Via, via, ciao Marco, ciao Natalino. Buonasera a tutte e due. No, beh, quella che hai è una terza serie, è quella che ti tocca, che è tua. Capito? Una terza serie ed è una collezione, nuovissima. Se l'hai presa per usarla, è chiaro, nel caso dovessi usare anche l'altra che c'hai, grande, ma quello è un digitale pieno, quindi non ha quei problemi. Avanti Marco, poi vai per Natalino, ciao, buonasera a tutti e due. Sì, oggi sono a piedi libero qua, dai, mi ha graziato quella persona. Sono un po' turbato perché qua si è... Non ho capito se è caduto o si è buttato uno nel palazzo di fronte al terzo piano. Si è sentito un tonfo e poi urla dei parenti, non so, che erano venuti a prenderlo. Ambulanza, polizia, però non è chiaro. Non è chiaro se è caduto o se si è buttato, ma credo che si sia buttato perché non è che cade così, no. Non ho capito, ma nella tua palazzina? No, di fronte. Non so, non ho sentito niente, di solito mia moglie mi informa di queste cose. Lui sempre guardando al computer, al telefonino. Non lo so. No, che si è buttato via Mameli. 2:30. Vabbè, vuol dire che non voleva più vivere, Marco. Avanti, Natalino. Buonasera a tutti. Buonasera, non essere triste, dimmi, parla. Non mi sento bene. E te parla? Non lo so. Poco fa, vomità. Qualche virus, qualcosa? Dipende. Dipende. C'è in giro questa influenza brutta. L'avranno fatto arrabbiare quelli là. No, comunque, Claudio, è successo poco fa, per dire, 20 minuti fa, via Nizza esattamente. No, ma credo che non c'era né sangue né nulla. Casomai qualche osso rotto, spero per lui. Un tipo mai visto, un ragazzo mai visto. Non so più chi ci abita in questa zona, guarda. Natalino, cosa c'hai? Ma sei affuttato per quelli là? Sì, io perché sono affuttato. Non lo sento di radio. Non lo sto uscendo. Cercate di avere un po' di pazienza. Ci ha rombolato con il microfono normale. Pochissimi watt, perché non vuole avere problemi con questo di fronte. E quindi è così. E Antoni magari un po' nervoso, un po', capito? Ti ha portato a avere questo sintomo. Cioè che è stato sereno, tranquillo, vedrai che si risolve, io mi ti dica. E prendi il valigio. Io non ho sentito per niente, proprio zero sotto zero, niente, poi c'è un po' di corrente, c'è qualche... Ogni tanto una scarica, adesso questa scarica di tutto, ne ho rotto le spalle, guarda. Ciao Marco, buonasera, ma che fine hai fatto? Ciao, no, almeno un minuto, ho fatto 5 giorni che non ti sento. Sì, dopo quel danno in cucina, stiamo mettendo a posto lì, buttando roba in più, svuotando stanzini, quindi ne avremo per un bel po', quindi non mi sentirete per parecchi giorni, tra un po'. Purtroppo sono le cose che ogni tanto devi fare, capito? Buttare roba in più che non hai, che non usi. tutti i soldi sperperati da qualcuna. Raggio compreso, vabbè, sono sempre cose da fare a casa e in questo caso mi devo sistemare il tutto. Ah, però che si è allontanato un attimo. E vabbè dai, stiamo piano, già ci riprendiamo tutto e speriamo qua anche con Natalino di risolvere. Speriamo bene, mamma mia, una tanta fatica per mettere la penna e poi arrivo tutti di fronte a rompere le palle, dopo riprendi nuovamente Marco, fai girare per Natalino. Ehi, ma il discorso è sempre quello. Quando uno comincia a comprare 10.000 paia di scarpe, per dire, 10.000 gonne, 10.000 vestiti, 10.000, ma poi mi compra 10.000 magliette, 10.000 camicie, alla fine la casa esplode, non sai più dove mettere la sta roba. E bisogna buttare, bisogna tenersi solo 3 o 4 mutande, 3 o 4 calze, 3 o 4 pantaloni, 3 o 4 camicie, da usare la rotazione. Ma no, cazzo, da non sapere più dove metterle, capito? E purtroppo qualcuno ha le mani bucate, quindi a spendere, poi quando non c'è di più, voglio vedere. Natali, vedi se ce la fai a riprendere, da? Parla vicino, mi come sto facendo io adesso. Sì, ma non è voglia, sono scombussolato, là. Sono da solo qua. Vabbè, là. Io vi ascolto. E dopo mi accendo un po' di televisione. Vi ascolto, là. E io non starò molto nemmeno. Ui, mamma mia. Caro Valerio, i problemi sempre vedi, o di salute o di casini o di... Chi è che non ce li ha di questi tempi? Tutti che abbiamo problemi, tutti, non solo tu, ma sono anche i problemi, no? Problemi generali, diciamo, no, problemi generali. E che si risolvono, dai, già si risolve tutto, piano piano. Si fanno piano le cose, si risolve. E vabbè, dai. Mi dispiace per Natalino, è proprio mi dispiace, ma non. E vabbè, porca miseria, guarda, non è possibile, non è proprio possibile, cioè, no, non disturbava nessuno, mi costruisco questo qua, questo demente, perché questo non è un demente, questo qua. A dire che l'inizio la televisione, poveri noi, io dico sempre di Natale, di vivere da soli, indipendenti, lontano da tutti e almeno uno può fare il cazzo che vuole. Eia, sì, ma magari sente disturbi da Natalino, ma perché? Perché l'antenna non è messa bene. Quelli di fronte non li disturba, c'è l'antenna sua attaccata all'antenna del baracchino, non disturba. Quindi, invece di fare gli sbruffoni e prepotenti, ci si aggiusta l'antenna, si mette a norma, si va a fare un bel impianto e vedi che disturbi non li piglia più. Cos'è questo di fargli togliere l'antenna? Gente che non conosce la legalità, non sa che nemmeno cosa sia il verde. Lasciamo perdere, mi tocca bestemmiare. Basta bestemmiare, gente ignorante che non capisce niente. Sì, ma anche la prepotenza, no? Capito, subito togliere tutto, andando a dire in giro, a cercare consensi, capito? Dicendo di togliersi l'antenna, ma così, ma dai di risesci tu. Chi è che non ci è passato col baracchino? Un po' tutti, capito? C'è lo stronzo emerito di turno che vuole fare casino, ha fatto anche il genere di Roma, vuole l'affinaggio, l'immigrazione di tutto il quartiere, raccolta di firme, poi per niente. È quello che ha dato fastidio al genere di Roma, si è impiccato. troppo perché era mezzo scemo, si è impiccato. E io graziosamente ho detto: Gianni, si è impiccato la tua antenna del baracchino. E la tua cosa dovrebbero finire, non erano tutti qua, era fare male, poi delle palle, sì, va bene, va bene. Si firmava come se ci fosse Gianni, te lo racconterebbe lui. Si firmava nelle lettere come Rosa Rossa, una cosa del genere, eppure non ha nemmeno il coraggio di mettere il suo nome, figurati. E come vedi, tutto fuffa è finito in una bolla di sapone. Sì, no, tutto problemi. Oh, yeah. Ne ho avuto anche problemi. Tutti a rompere le palle, e anche qua, all'inizio, uno mi è venuto su, io quando modulavo guardavo la televisione, come l'antenna è centralizzata, guardavo la televisione e non disturbavo niente, tu invece, mi stai disturbando tu, tanto c'è il citofono, c'è il telefono, c'è tutto qua, madonna. Qua né citofono né nulla. Solo una volta che ero in macchina qua sotto e effettivamente sono entrato nelle casse del computer di uno, ma avevo anche linearetto in macchina, capito? Solo stato quel caso sporadico. E comunque sai che se si modulasse in FM non si entrerebbe né in citofoni né in casse di computer eccetera. L'FM è molto più disturbatore dell'FM, l'FM è perfetto, si disturberebbe molto meno parlare FM, però qua non prende l'FM, in tutta Europa parlano FM, in Italia no, vogliono fare gli sboroni con radio amplificate eccetera. Vabbè, pazienza. Allora io non sono mai disturbato qua, però diciamo da 2 mesi più o meno a questa parte sto disturbando la RAI, no? Secondo terzo, invece le TV media, quelle no. Però l'altro giorno così provando, ho detto basta, prova in FM. Oh, lo sai che in FM niente, non mi turbo, neanche in macchina, non è che si blocca oppure fai quadratino, no, niente. L'FM va benissimo, vabbè, l'FM è cosa, la banda stretta, invece l'FM si aspoglia a non finire. Anch'io ogni tanto vedo quadratini, squadretta o salta l'immagine per un attimo, si blocca, è come che me la devo pigliare col ponte cellulare, che qua hanno installato a 30 metri da noi un ponte cellulare. Sono cose così, può capitare, che ne so, si posa un uccello sull'antenna, una cornacchia, un piccione, cosa ti dico? Ci sono un'infinità di motivi, può essere pure che sia disturbato il ripetitore che trasmette il segnale da Milano a qua, quindi quello di pigliarsela con altre persone non è una cosa che non ha assolutamente senso, capito? Eia. Cerchiamo di muoverci allora, andiamoci anche tutti in FM, e poi in FM ci sentiamo anche meglio, no? Segnali più forte, e ci si arriva anche meglio, vabbè, tutti non abbiamo non siamo tutti abituati a fare in AM, dovrebbe essere obbligatoria, almeno uno va in FM, che va bene. Ogni tanto andavamo noi, però per esempio a Claudio non piace l'FM, quando andavo in FM, io è brutto l'FM, non si sente forte, io non mi piace, e dovevamo tornare in AM, capito? L'FM è un modo di emissione intelligente, guarda, io l'avrei reso obbligatorio anche in Italia, norma eccetera, quello 40 canali FM, e boh. FM ed SSB perché vabbè, quello può andare, dai. Però lei mi ha ricominciato a metterlo da parte. Solo che come si fa? Troppi 48 col doppio ondulatore, il triplo ondulatore. voi, mamma mia. E restiamo così, dai, ogni tanto una qualche cosa, poi che si può fare, si può andare nel tempo, vabbè. Da una parte molto meglio, si pompa di più, modulazione forte e chiara. Claudio, sei rientrato? No, ancora no. Natalino, e dov'è la signora? Tripla picchiriola. E beh, tu. Ciao, ben entrato. Natalino? Sì, non ne ha voglia, dai, Natalino non se la sente. Posso capirlo, ogni tanto anch'io certe volte proprio non ne ho voglia di stare al baracchino, preferisco starmene in silenzio o accendere la TV. Fiocchi. Scusate che io c'è gente, un attimino, vi sto ascoltando però, già riprendo subito. Ah, io non trovare scuse, io. Ma io, Gamagisi, è la prima genera, un attimino, sto riprendo subito. Manda via tutti, caccia via tutti e entra in radio. No, stiamo commentando la partita di ieri. Questo 2-2 che non mi è piaciuto per niente, perché stavamo vincendo 2-1 a Bergamo, che è un campo così difficile. A un minuto dalla fine, ragazzi, sono rilasciati e sono i cani pareggiato la Taranta, per carità. Va bene, dai, non è successo niente. Molto difficile il campo di Bergamo, molto molto. Poi la Taranta è quarta e sta lottando per la Champions, quindi è chiaro che è molto aggressiva. Va bene, arrivo subito, vai. Vabbè, Brizzella. Oi, Cazzarella. Sono pindacciato, che siamo pareggiati a Bergamo. Cosa, Cla? Ti hai pindacciato ieri che abbiamo pareggiato a Bergamo. Io pindacciato? Oggi tu nuda, proprio arrivano oggi tu nuda. Vabbè, Bergamo è un campo difficile. Però stavamo vincendo 2-1. E hanno sbagliato dopo a un minuto alla fine che trovia un brucio in bocca l'arbitro. Vabbè, non è successo niente, siamo sempre primi a 8 punti, quindi no, non cambia la situazione. Vabbè, c'ho gente, 10 minuti arrivo subito, riprendi Marco. Eia, ah beh, la Juve quindi no. Aver pareggiato non la penalizza, dai, quindi non succede niente, dai, ho capito. Vabbè, mi sono riempito troppo a pranzo adesso, mamma mia. Mi sta venendo l'abbiocco mio, tipico. Oh, vale. Mamma mia, cosa per mangiare? Non devi mangiare tanto, che poi ti viene appunto l'abbiocco, come hai detto. Dovresti fare un po' di dieta. Che poi non è che abbia mangiato molto, solo che io mi sazio subito. Stomaco piccolo, capito? Quindi un pranzo normale per altre persone, a me mi sazia molto, poi mi viene l'abbiocco, affluisce il sangue allo stomaco e ne va meno al cervello. Che fai a vedere lo stomaco piccolo se stai sempre mangiando? Si sarà allargato, no? No, non credere, no. Non credere, no. Io mangio poco ma spesso, e alla fine già ci scende, dai. Poco ma spesso, vabbè, dai, a mangiare di meno, sia, e così, e io stesso a cena devo mangiare di meno, perché tu la notte fa male. Io non è che sia mangione, però sto sempre rosicando, sembro un castoro. Luca, riprendi. Sto controllando il televisore, dai, già sono qua in ascolto. Ehi, io purtroppo mi devo fare i piatti, mi devo lavare quel paio di pentole, sennò qua andiamo male. Ehi, sai cosa devi fare, Marco? Ormai mamma è anziana, capito? Sta tutto il giorno attaccata alla TV. Ehi, fai tutto tu adesso. Poi, a come ci sei, cosa devo dire? Voi devo stare a nettorra. Cioè, stanno chiuso in casa, no? Sono per dire, l'insulina, fai idio, qua e là, ma questo, ma qua, portare all'ospedale, ti porta a casa. Purtroppo io da qua non posso. posso spostare, devo stare sempre qua in zona, ecco, nel rione. Ia. I genitori quando vecchiano vanno aiutati. Bene, giusto così. Speriamo che non si sia fatto niente quel ragazzo. Mamma mia, che impressione. Cioè, il padre stava urlando. Deve essere stato uno shock. Era lì davanti. Però, sì, qua davanti si è buttato uno. Non credo che sia caduto, non credo proprio, credo che sia buttato. Allora, atterrato. Oh, senso piano, ho capito, ma sangue non ce n'era. Forse non è, spero non sia grave. Mai visto. Boh. Dimmi, Claudio. Dai, mi preparo per la portare il cane, ti accompagno, non ti andrò giù. Ci sentiamo dopo se ci siete, ok? Se ci siamo sì, dai, io dovrei farmi un po' di piatti, pentole, due cosette dovrei lavare, poca roba comunque, quindi forse mi troverai. Capitolo, si è sentito questo tonfo, come quando tiri un calcio alla macchina, così, boom. Ci credevo fosse una rissa, gente si stava zuffando, perché sono detto urla, invece c'era questo povero ragazzo a terra, niente sangue però, forse è caduto di spalla, non lo so, era portato via l'ambulanza, c'erano carabinieri, tutti affacciati, mamma mia. Io ho sbirciato, ma poi me ne sono andato, invece mamma va i denti fisso. Cazzo, sembrava un avvoltoio che si gode la malani e gli altri. Ho detto, non stare lì a guardare fisso che non sta bene. Nulla, non sono riuscito a staccarla dalla finestra. Lo sa lui magari con i problemi che ha, poi via. Ehi, gira, mi tira un po' io su, pure io. Qua è anche più alto. E via, la carità. Vabbè, anch'io già sono un po' depresso, ma niente di grave, insomma, sempre spallato, d'altronde chi non ha lavoro non si può fare famiglia, non si può, ma con la piscina ti puoi pigliare, perché se non hai soldi ho visto che non ti considerano tanto, capito? Meno che non trovi quella proprio moderna che vuol pagare lei ogni tanto, capito? Invece quelle che ho avuto io, Luca, erano tutte a carico mio. Cioè, non mettevano un centesimo, io devo pagare tutto. Non hanno mai cacciato un centesimo per quando ci si va a mangiare fuori, nulla. Capito? Erano di quelle che pensavano che è l'uomo che deve pagare tutto. All'antica, capito? Purtroppo così, come fa? Io già devo dire che ho un lavoro, lavoricchio, e poi sono fidanzato, non è facile, però diciamo andare avanti comunque, poco a poco si può andare avanti, sono quasi 2 anni, vedi tu. E poi, quelle che sono capitate a me, si volevano due almeno, si volevano sposare. Capito, quello è capitato, non mi si volevano sposare, io ciao per dire, non ti innandi. Lo so, ma boh, da un attimo che sto portando la televisione, tra un po' vi saluto, che anch'io vado a cena, poi risalgo verso le 9:30, poi appunto la mamma, mi vado in un circolo, così con amici, e penso a mezzanotte sarò a casa, penso da dormire da lì stanotte. Sì, già. Mamma mia, io invece non sto più scendendo nemmeno a piedi, proprio, e tanto Sassari è diventata, diciamo, Valerio, è diventata una città stretta, piccola, mi sono reso conto che su internet trovi di tutto e di più, l'inimmaginabile trovi, qua Sassari, se ti serve un articolo appena particolare, non si trova, ti dicono che non esiste anche, capito? Così. Se vai a cercare qualcosa non la trovi. sì, sono sempre su internet, quando serve qualcosa controlli proprio qualsiasi cosa. Di molte cose, Alighiero soprattutto, è diventato uno schifo. Alighiero soprattutto, poi Sassa è noto, a Sassa riesco a trovare un po' di più. Però Alighiero, molti gruppi chiusi, molte cose non si trovano più così. Perché ti sono anche che non ti sto e io però dai ma tu faccio un attimo ti faccio quello tu cosa vuoi fare fai quello che devi fare capito? Obbedisco vai ti devi fare io quello che faccio però io lo stesso come c'era mia madre facevo adesso ormai sono da solo e vabbè sempre da fare comunque ma vado a farmi vado a prepararmi in braccella altrimenti poi mi si fa troppo tardi da un casino comunque domani ritorno mentre sta cuocendo ritorno qua ok cosa ci fai? Sai cosa che devi fare? Ehi adesso vado dai volevo fare un cotticino Natalino ci sei? Natalino tutto bene? È tornato tua moglie? Mi sa che ha chiuso, dai, non se la sente oggi, tutto scombussolato. Ehi, Natalino, da quando ha messo sto baracchino, si è rotto le palle, soprattutto questa antenna esterna, si è rotto solo le palle. Quando aveva l'antennino, quelli di fronte, ubriachi, gli ospiti gli hanno buttato l'antennino alla macchina, dal palo, gli hanno rovesciato. Da quando ha messo l'antenna esterna prende un bel QRM anche 9-10, più ci sono messi questi rompiballe che vedono male da TV, e quindi da quando si è messa l'antenna esterna solo rogne mi, Valerio, ho capito. Ma speriamo che cambi tutto, dai. Dai, sentiamo, più tardi, ciao. Speriamo che si risolva, dai, perché è un peccato, è stato un peccato. Va bene, ciao Marco, più tardi o domani, ok, ciao. Ecco, sono rientrato, c'è qualcuno, c'è rimasto nessuno? No, va bene, pazienza. Vabbè, Marcolino. Valerio, ci prendiamo un caffè, due chiacchiere e poi me ne rientro a casa. molto probabilmente me ne salgo anche su, sarebbe la giornata che non c'è vento, ho qualcosa da fare anche sul tetto. Cosa? Domani? No, assolutamente no, domani mattina mi faccio due cosette, poi c'è l'impegno del cane, verso 9:30 porto il cane alle 9:00. E poi me ne sto a casa, fra, ho bisogno di riposarmi, e non basta i chilometri che faccio tutta la settimana, no, e poi come faccio a spostarmi? Le tratte, vabbè, me lo porto con me, non c'è problema, ma ancora no, quindi lui alle 9 deve uscire, 9:30, non è un cane che si è, lui esce alle 6 del mattino, però poi a 12:30 mangia, ha capito, lo devo riportare verso 1:30, poi mangia alle 6:30, lo devo riportare verso le 8, no, oramai è un figlio piccolino, ma va bene per me, sono abbastanza tranquillo, però sono molto, molto rinchiuso, sono molto a casa, non sto andando più da nessuna parte, ma lo fa. E il gatto fa tutto da solo. Filippo poi da solo soffre moltissimo di nostalgia, lui quando è solo, poverino, fa sempre curicato, addormentato, come ti vede, piange, proprio piange, capito? È un cane molto, ha bisogno molto di compagnia, e a noi veramente ci fa molta compagnia, a Miranda siamo sempre a casa, capito? Sta sempre con noi, ogni passo lui mette appresso, quindi è così. Io ti ripeto, lavoro, rientro a casa, non sto uscendo, non è tutto nulla. Sto bene così, fra. E io realizziamo qualcosa, vediamo un po', te l'ho detto. Adesso anche lunedì vedi si poteva, adesso se li tagliamo, ci siamo visti, però sarebbe libero, non mi posso spostare. Quindi poi lavoro, esco alle 2, sono stanco, non va a giocare. Sono diventato un ciabattone, così si dice. E peggio il battofraio, proprio ciabattone. Capito? Non c'è che stare molto a casa, la verità. Non... Sono molto tranquillo in questo periodo. Non... Grazie a Dio tutto sta funzionando bene. Mi piace stare a casa, rilassato, mi qua, le radio. Due chiacchiere di 27 con la greffetta e basta. Per il resto esco domani mattina, però dopo mi ho sistemato il cane, 10:30, capito, adesso quello lì. No, ti sento ancora, fra. Ah, non capito. Vabbè, se stai andando al ghetto, dalla mia posizione già ti sento, ma se c'hai poca potenza poi ti perdo. Ah, non capito. Ma sei già diretto, ormai l'hai già superato. Ho capito, però quando prendi l'altro arrivi, sicuramente arrivi molto meglio. Benissimo, benissimo, non c'è problema. Va bene, per avere 5 watt stai andando alla grande.